Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Hanno già pronunciato il sì William e Kate sotto gli occhi di 2 miliardi di persone. Nella Basilica di Westminster, teste coronate da ogni parte del mondo. L'inflazione sale ad aprile al 2,8%, pesano trasporti e tariffe di elettricità e gas. Disoccupazione giovanile al 28,6%. Buoni vacanza anche in alta stagione, ma solo a Lampedusa per il rilancio dell'isola. Intanto sono ripresi gli sbarchi. La beatificazione domenica di Papa Giovanni Paolo II, oggi cerimonia privata nelle grotte Vaticane per la traslazione della bara, intanto Roma si riempie di pellegrini. Buongiorno da Maria Piera Cici e dalla redazione di GR24, dunque in apertura al matrimonio reale, il matrimonio del secolo è stato definito. Catherine Elizabeth, wilt thou have this man to thy wedded husband, to live together according to God's law in the holiest state of matrimony? Wilt thou love him, comfort him, honor and keep him in sickness and in health? And forsaking all other, keep thee only unto him, so long as ye both shall live. Ecco, l'avete sentito, una specie di sussurro, in realtà niente di più, quello pronunciato da Kate, ancora più flebile l'I will di William. Insomma, il matrimonio è celebrato e c'è stato anche lo scambio degli anelli, vero Marta? Intanto tutto è iniziato con un I love you, you look beautiful, ti amo, sei bellissima, ha detto all'altare William a Kate, anzi il duca alla duchessa di Cambridge. Poi il brevissimo rito, l'anello nuziale che William ha donato a Kate, un cerchietto di oro del Galles, faticava a entrare. Non c'è stato lo scambio vero e proprio perché William ha deciso di non portare la fede. Qualche minuto dopo William e Kate però erano sposi. L'attenzione del mondo era tutta sull'abito disegnato da Sarah Burton per la Maison McQueen, con un corpetto di pizzo e un'ampia gonna con uno strascico di quasi 3 metri, un'immagine che a tanti ha ricordato quella dell'abito nuziale di Grace Kelly. Sui capelli il diadema prestato dalla regina Elisabetta fu realizzato da Cartier nel 36 dal padre della sovrana, allora duca di York, per la moglie, la regina madre. La coroncina fu donata alla regina, allora solo principessa Elisabetta, da sua madre al compimento del 18° anno. E invece per William e Kate ora cominciano i veri festeggiamenti. Grazie Marta Cagnola, tra l'altro dedicheremo al matrimonio reale uno speciale in onda alle 13.30, quindi avremo tutti i dettagli, sentiremo le musiche e quant'altro. La pagina degli esteri con le indagini sull'attentato di ieri a Marrakech in Marocco. Si seguono tutte le piste, ma quella che conduce ad Al-Qaeda resta la più accreditata. Il Marocco, che fino a ieri era rimasto fuori dalle rivolte dei paesi vicini, potrebbe precipitare nella spirale della Jihad. A fare da innesco, il processo di riforme democratiche cominciato qualche mese fa, un cambiamento che i fondamentalisti respingono e che tentano di far saltare colpendo la prima industria del paese, il turismo. Il terrorismo non faceva vittime in Marocco dal 2003, quando 5 attentati sconvolsero contemporaneamente Casablanca. I terroristi hanno colpito proprio dove sapevano di provocare la maggiore eco internazionale. Piazza Jemaa El Fna, poco prima di mezzogiorno, era gremita. Il caffè Argana, che affaccia sulla piazza, era affollato. All'improvviso il locale è stato devastato da un'esplosione. Secondo alcuni testimoni, si sarebbe trattato di un kamikaze. Secondo altri, un uomo avrebbe lasciato una valigia all'interno del locale, uscendo prima dell'esplosione. Il governo di Rabat ostenta fermezza. Il processo di riforma avviato non sarà messo a rischio da alcun tentativo di destabilizzazione. Valeria De Rosa, Radio 24, il sole 24 ore. In Siria si prepara un'altra giornata difficile. La Guardia Repubblicana si sta dispiegando a Damasco, dove a breve inizierà la preghiera del venerdì. Testimoni parlano di camion equipaggiati con mitragliatrici che trasportano soldati in tenuta da combattimento. 28 anni, studente di scienze politiche all'Università di Damasco, Rami Nakle, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Malat Omran, è l'uomo che tiene le redini della guerra telematica contro il regime siriano di Bashar al-Assad. Nel suo appartamento nascosto a Beirut, attraverso Facebook, Twitter e vari siti che cambia di sovente, raccoglie il materiale video, le testimonianze della rivolta e le diffonde nel mondo. Oggi è uno dei cyberattivisti siriani più ricercati dai servizi segreti. Lo ha incontrato e lo ha intervistato Roberto Bongiorni, che si trova per il Sole 24 Ore appunto in Libano. Penso che la gente in questa regione, sotto questo regime, questa corruzione, sotto questa pressione della polizia segreta, del governo, sotto queste ingiustizie in cui viviamo, in generale sotto questa dittatura, faccia un'opposizione silenziosa. Sanno bene qual è la natura di questo regime, ma non hanno speranza. Quello che è accaduto in Egitto e in Tunisia, anzi quello che è successo innanzitutto in Tunisia, ha influenzato tutte le regioni arabe e ha mandato a tutti un messaggio chiaro. La situazione in cui siamo non è il nostro destino, ma può essere una nostra scelta. Possiamo cominciare ad avere una speranza. E quando la gente comincia ad avere speranza, tutto cambia. E questo è il risultato di un effetto domino nei paesi arabi. La gente è scesa per le strade per abbattere il regime. All'inizio, quando erano solo 100, 200, non potevano parlare, avevano paura. Ma quando tutti sono scesi per strada, hanno cominciato a dire che non credevano in questo regime, nelle riforme. Abbiamo avuto moltissime promesse di riforme in Siria, ma sappiamo che niente cambierà. Sappiamo che non possiamo fare affidamento su questo regime per niente, per la Costituzione, per la legge, per le loro promesse. Quando riusciremo a riunire un grande numero di persone, protetti e sostenuti dalla folla, riusciremo a far sì che si possano cambiare le persone alla testa di questo regime. Interrogatorio questa mattina di Totò Riina nel carcere milanese di Opera, Raffaella Calandra. L'interrogatorio era fissato per le 10 e ancora non si conosce quale sia stata la condotta di Totò Ucurtu, che in genere però non risponde ai magistrati. Per il capo più sanguinario della mafia corleonese, oggi interrogatorio di garanzia nel carcere di Opera, dopo le ultime accuse che lo indicano quale mandante anche dell'attentato al Rapido 904 che il 23 dicembre 1984 uccise 16 persone che tornavano a casa per il Natale. Una strage che fu la prima e immediata risposta di Cosa Nostra, scrivono i magistrati napoletani, titolari del fascicolo, agli arresti disposti da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e anche l'esplosivo usato per il treno in Val di Sambro era lo stesso di Via D'Amelio. Una firma per i corleonesi, come Giovanni Brusca, l'uomo che aveva il telecomando della strage di Capaci, poi pentito, ha raccontato ai magistrati, spiegando come tutto rientrasse in una precisa strategia a più piani: il terrore insieme all'eliminazione di chiunque fosse impegnato nella lotta alla mafia e insieme, dichiara a verbale Brusca, al sistematico tentativo di aggiustamento dei processi. Per l'esecuzione dell'attentato al Rapido la mafia si avvalse dell'aiuto materiale della camorra napoletana e soprattutto del gruppo dell'ex boss del Rione Sanità, Misso. Staremo a vedere cosa avrà detto Totò Riina. È tutto. Grazie Raffaella Calandra, ed ora i dati di giornata su occupazione e inflazione. Sì, buongiorno. Partiamo dall'inflazione. In Italia ad aprile il tasso di inflazione è salito al 2,6% dal 2,5% di marzo. Il dato comunicato dall'Istat indica una crescita di mezzo punto percentuale su base mensile ed è il più alto da novembre del 2008. Una crescita che ha il suo corrispettivo nella zona euro, dove secondo la stima di Eurostat nel mese di aprile l'inflazione è salita al 2,8% contro il 2,7% di marzo. In Italia l'aumento è stato trainato dal rincaro delle bollette di luce e gas, ma anche dal boom dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti, da quello marittimo agli aerei passeggeri, e soprattutto dai carburanti, con la benzina verde che rallenta un po' rispetto a marzo ma resta in crescita del 10,9%, mentre il gasolio sale del 18,8%. Da segnalare anche che i prezzi alla produzione dei prodotti industriali a marzo sono aumentati del 5,7% rispetto allo stesso mese del 2010, dello 0,7% rispetto a febbraio, e questo è il rialzo più alto dal settembre 2008. I dati sull'occupazione sono invece a due facce. A marzo, infatti, il tasso di disoccupazione è risalito rispetto a febbraio, attestandosi all'8,3%, mentre resta in calo di 0,2 punti su base annua. Cresce di 41.000 unità il numero dei disoccupati, cresce soprattutto la disoccupazione giovanile, che è al 28,6%, tuttavia anche l'occupazione cresce. A marzo è salita di 0,3 punti sia rispetto a febbraio sia rispetto a marzo 2010. Secondo l'Istat, dunque, dietro questa doppia crescita di occupazione e disoccupazione c'è l'aumento della partecipazione al mercato mercato del lavoro, anche perché cala il tasso di inattività. Se il ministro Sacconi sottolinea che una ripresa per quanto moderata è in atto, la CGIL punta il dito sul fatto che una disoccupazione sopra l'8% si conferma come un dato strutturale che continua a peggiorare, nella zona euro intanto il tasso di disoccupazione in marzo è stato del 9,9%, stabile rispetto al mese precedente. E grazie a Paolo Piacenza. Intanto in questi istanti inizia la traversata per le vie di Londra di William e Kate, sono saliti sulla carrozza, quindi la cerimonia si è conclusa. Con l'obiettivo di aumentare del 10% dal 2015 la produzione di petrolio dai giacimenti scoperti in Basilicata, lo Stato e la Regione hanno firmato a Potenza un memorandum d'intesa, un piano che dovrebbe colmare almeno in parte le richieste nazionali e portare benefici in termini di investimenti alla Regione. Il governatore Vito De Filippo al microfono di Valeria De Rosa. È l'espressione autorevole di una doppia volontà, che è quella del governo nazionale e della regione Basilicata, a considerare l'accessibilità alle risorse petrolifere della Basilicata come un rilevante problema nazionale e ovviamente anche una grande opportunità, una grande occasione per la Basilicata e per il Mezzogiorno. La quantità di petrolio che si può estrarre dalla Basilicata ridurrebbe consistentemente la nostra dipendenza dall'estero e garantirebbe risorse petrolifere all'Italia fino al 13-14% del fabbisogno nazionale. Ovviamente questa grande opportunità che la Basilicata rappresenta per l'Italia e dovrà essere necessariamente anche un'opportunità di crescita e di sviluppo per il nostro territorio. Si parla di 1,5 miliardi, detto fuori dai denti. È un apprezzamento che fanno alcuni tecnici, alcuni osservatori, che io ovviamente non confermo ma non smentisco, può essere anche quella una cifra, diciamo, possibile. C'è una contropartita negativa per la Basilicata o sono tutte rose e fiori? No, la contropartita negativa potenziale è quella di una sostenibilità in termini ambientali e di tutela della salute. Noi ci aspettiamo che questo nuovo programma curi molto questo tema della sostenibilità ambientale. Sono ripresi gli sbarchi a Lampedusa, come ci racconta Giustino Strano, coordinatore sanitario della task force istituita per seguire la vicenda. Sentiamolo al microfono di Adriana Fracchia. Nella notte di oggi, nella mattinata alle 03, c'è stato un grosso sbarco con 178 immigrati profughi provenienti dalla Somalia, dall'Eritrea, dalla zona sahariana, Costa d'Avorio, Mali e qualcuno della Tunisia. Sono stati portati al centro Loran, l'ex base americana. I profughi non verranno rimpatriati, verranno poi smistati nei vari centri in Italia. Tra questi 178 vi sono 3 donne e 2 bambini. Quindi insomma la situazione in questo momento lì a Lampedusa com'è in generale? Sono ripresi gli sbarchi, dal 19 non ce n'erano, da ieri sera alla 19 ora ce ne sono stati 3, l'ultimo con 9 persone. Però questo è un punto interrogativo, perché loro dicono di essere pescatori e che l'imbarcazione è in avaria, quindi da prendere con le pinze, nel senso che i tunisini a volte non dicono la verità perché sanno che possono essere rimpatriati, quindi magari dicono cose non vere. E stamattina conferenza stampa a Palazzo Chigi proprio per il rilancio dell'isola di Lampedusa, in diretta Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Il governo ha presentato questa mattina la cosiddetta fase 2 del piano di ritorno alla normalità per l'isola di Lampedusa, fase dedicata questa al rilancio del turismo dopo l'emergenza migranti delle scorse settimane. La stagione 2011, ha detto il ministro del turismo Brambilla, sarà la migliore degli ultimi anni, grazie anche, ha spiegato, ad una campagna di promozione che partirà a breve sulla RAI, ma non solo. La Brambilla ha annunciato quindi di aver firmato un decreto che estende la possibilità di utilizzare i buoni vacanze sull'isola di Lampedusa anche nel periodo di alta stagione. Questo grazie ad un accordo con gli operatori del settore, ma ascoltiamo il ministro. Prevede che le associazioni si impegnino anche mediante il diretto coinvolgimento delle agenzie di viaggio e dei tour operator ad indicare con assoluta priorità l'isola di Lampedusa come destinazione sicura e di eccellenza. Sono 2 punti importanti che corrispondono ovviamente e completamente alle realtà delle cose. Il contributo del governo, ha spiegato il ministro del turismo, arriva fino al 45% del costo totale della vacanza. Contrariamente a quanto annunciato, era assente alla conferenza stampa il presidente del Consiglio Berlusconi e nessun mistero, ha spiegato il sottosegretario Buonaiuti, il premier è impegnato in riunioni operative a Palazzo Grazioli. E da Roma è tutto. Nella prima parte di GR24 abbiamo seguito la cerimonia, il sì di William e Kate sotto gli occhi di 2 miliardi di persone. Ora stanno sfilando per le vie della città sulla carrozza. Finalmente Kate appare un po' più rilassata, saluta come ovviamente tradizione. L'inflazione sale ad aprile al 2,8%, pesano trasporti e tariffe di elettricità e gas, disoccupazione giovanile al 28,6%. Buoni vacanze anche in alta stagione, ma solo a Lampedusa per il rilancio dell'isola. Intanto sono ripresi gli sbarchi. Ripartiamo dalla beatificazione di Papa Wojtyla. Oggi cerimonia privata nelle grotte vaticane per la traslazione della bara. In diretta Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. A Roma ormai si respira a pieni polmoni il clima di questo grande evento. La macchina organizzativa è entrata nel vivo, le cerimonie della beatificazione sono cominciate. Questa mattina, come dicevate, da studio la teca con le spoglie di Wojtyla è stata estratta, portata vicino alla tomba di San Pietro, sempre nelle grotte vaticane, dove resterà fino a domenica, quando verrà portata in processione davanti all'altare centrale. La venerazione delle spoglie sarà possibile a tutti i fedeli e proseguirà fino all'esaurimento del flusso. Intanto è già cominciato l'arrivo dei pellegrini, con voli e treni speciali da ogni parte d'Italia e del mondo, mentre l'area di San Pietro è diventata una sorta di gigantesco studio televisivo, oltre 2500 i giornalisti accreditati, tantissimi anche in maxi schermi. Imponenti poi le misure di sicurezza, anche se fa sapere il capo della polizia Manganelli che non ci sono segnali di specifica minaccia, nessun allarme, conferma anche il sindaco di Roma Alemanno, ma ovviamente la vigilanza deve rimanere alta, così come per tutti i grandi eventi. Il primo appuntamento, lo ricordiamo, è per domani alle 19.30 con la veglia al Circo Massimo, una maratona di riflessioni, testimonianze e preghiere. Domenica alle 10.30 a San Pietro invece la messa di beatificazione celebrata dal cardinale Tarcisio Bertone, segretario di Stato. Secondo le previsioni saranno giorni di pioggia. Da Roma è tutto. E grazie ad Alessandra Schepisi. Ed è di Carlo Balliana, lo scultore trevigiano che ha realizzato monumenti e portali dedicati a Papa Giovanni Paolo a Sotto il Monte, il prezioso reliquiario con il sangue di Giovanni Paolo II che sarà esposto alla venerazione dei fedeli dopo la beatificazione in Vaticano. Sentiamo Balliana al microfono di Adriana Fracchia. L'idea è nata dal cardinale Stanislao Divic, segretario di Papa Wojtyla per 30 anni, primate della Polonia, e parlando con il suo segretario mi ha chiesto se potevo fare un bozzetto, un disegno per creare un reliquiario che raccogliesse il sangue del beato Giovanni Paolo II. Io ho fatto il bozzetto, non sapevo che era un concorso. Hanno fatto un sondaggio a livello internazionale di vari artisti per creare questo reliquiario e hanno scelto il mio. È vero che lei ha sognato Papa Wojtyla? Certo. Quel giorno che loro sono venuti qui nel mio studio, i primi giorni di gennaio del 2011, mi avevano fatto un po' di pressione perché potessi farlo in breve tempo, in quanto loro avevano altri elaborati da esaminare. La stessa notte mi sono sognato alle 4:15, mi ricordo benissimo, e a basso del mio capezzale mi sono trovato l'immagine di Papa Wojtyla vestito di bianco, che mi ha detto: fai il reliquiario come un libro aperto del Vangelo, e sulla destra metti il pastorale che io ho sempre portato in mano, sull'altra parte metti lo stemma pontificio con scritto: non lite timere, non abbiate paura. Questo era il mio motto quando ero vivo. Basta, mi sono svegliato e ho fatto quello che lui ha voluto. Ho capito che veramente Papa Wojtyla è un santo. I grandi santi si fanno sentire ogni momento della vita. Intesa sulle aperture dei negozi nei giorni di festa, in particolare il 1° maggio, all'incontro fra il presidente dell'ANCI Sergio Chiamparino e rappresentanti di CGL, CISL, UIL, UGL, Confesercenti e Confcommercio. Chiamparino ha rivolto un appello al confronto in extremis a sindaci e sindacati perché trovino un accordo, in particolare a Firenze e Milano. Paolo Piacenza lo ha intervistato. Tutti si sono ispirati a questo buon senso pragmatico che io ho cercato di introdurre, devo dire l'hanno condiviso tutti. Quindi affermati alcuni principi che condividiamo, cioè anch'io penso che Natale, Pasqua, il primo dell'anno, il 25 aprile, il 1° maggio sono feste che devono essere considerate in linea di massima e di principio inviolabili, perché è da essere dedicate quindi alla loro celebrazione, al riposo, alla famiglia. Dopodiché resta il fatto che se si verifica un evento che non si può che verificare in quei giorni, perché che so io, magari è un convegno che dipende da viene deciso in altre parti del mondo dove quelle festività non hanno quel valore. Allora, si può considerare una deroga se questo viene valutato necessario, purché sia definita, negoziata tutti i suoi aspetti a livello locale. Questo mi sembra una cosa di buon senso. È ottimista per quanto riguarda la ripresa di questo dialogo a Firenze e Milano o pessimista? No, sono fiducioso che possa prevalere il buon senso, il pragmatismo. È stato aggiornato il bilancio dei morti di tornado e piogge incessanti nel sud degli Stati Uniti. Ora si parla di 300 vittime. Lo stato più colpito è l'Alabama, dove si contano centinaia di vittime e una città, Tuscaloosa, mezza rasa al suolo. Ma tutta l'area sudorientale degli Stati Uniti, dal Kansas alla Georgia, è stata investita da forti temporali e soprattutto da una serie incredibile di 137 tornado, alcuni di eccezionale forza, come quello ripreso proprio da un abitante di Tuscaloosa e ritrasmesso dalla CNN. Si capiva che stava risucchiando tutto, racconta il testimone Chris England. Non riusciva a distinguere cosa, ma si vedevano diversi colori turbinare. Erano tetti, cartelloni, alberi, pali della luce e anche persone. Una centrale nucleare è stata obbligata a ricorrere ai generatori di emergenza e disporre l'evacuazione di tutto il personale. Sono scene incredibili quelle che arrivano dai 13 stati colpiti, molti dei quali hanno già dichiarato lo stato di emergenza e l'Alabama quello di catastrofe. E proprio qui, in Alabama, arriverà oggi il presidente Obama, prima di trasferirsi a Cape Canaveral per assistere al lancio dello shuttle. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E allora ci trasferiamo anche noi a Cape Canaveral con il nostro Gigi Donelli. Buongiorno Gigi. Sì, buongiorno Piera. Allora, è confermato che ci sarà anche Obama? Dunque, è confermato che Obama sarà in Alabama e che il suo programma prevede che sarà poi appunto alle 15:47 minuti ora della Florida, quindi le 21:47 italiana, per salutare lo Shuttle Endeavour. Sì, per ora tutto è confermato. Dicevo, effettivamente il maltempo, che naturalmente in altre parti degli Stati Uniti ha prodotto effetti devastanti, qui stanotte l'ha fatta da padrone, in realtà ha fatto anche pensare al rischio di sospensione del lancio, perché tuoni, fulmini e soprattutto una grande pioggia ha investito questa parte centrale della Florida. In realtà adesso, con il sorgere del sole, la situazione sta visivamente migliorando e quindi per ora il conto alla rovescia procede regolarmente. Bene, quindi tutto è pronto? Tutto è pronto, come sono pronti naturalmente gli astronauti, a cominciare dal nostro Roberto Vittore. Ricordiamo, stamattina c'è stato il consueto incontro, saluto alla famiglia, ai suoi figli, quindi alla delegazione, l'incontro con il presidente della NASA Bolden e naturalmente di Vittoria e degli altri cinque compagni d'avventura comandati da Mark Kelly. Insomma, tutto è pronto, già da circa mezz'ora è cominciato il caricamento, quindi del carburante, di fatto dell'ossigeno che alimenta i grandi booster, il grande serbatoio, e che quindi tutto, diciamo, procede regolarmente. Certo. Per ora, nel primo pomeriggio avremo naturalmente nuovi dettagli sul conto alla rovescia finale che verrà quindi lanciato. Speriamo bene, grazie a Gigi Donelli. Simbolo di verità, giustizia, American Way of Life, Superman ha minacciato di rinunciare alla sua nazionalità statunitense per diventare cittadino del mondo. Sono stanco che le mie azioni vengano interpretate come politica statunitense, commenta il supereroe sull'ultimo numero del fumetto. Reazione sdegnata della destra americana, crede nella neutralità svizzera o nell'interventismo britannico? Se non crede all'America, non crede a nulla. Il ciclismo, dopo la vittoria di ieri di Damiano Cunego al Giro di Normandia, oggi si svolge la terza tappa Thierrens-Neuchâtel di 165,7 km. Il veronese cerca di strappare il primato in classifica al russo Brut in vantaggio di 38 secondi. Intanto si avvicina il Giro d'Italia, che partirà il 7 maggio da Torino. Un giro particolare, quello del 150esimo, con il duello fra lo spagnolo Contador, vincitore di tre Tour de France, e gli italiani Nibali e Michele Scarponi. Di questi argomenti si parlerà domani pomeriggio alle 17 in A Tempo di Sport con Carlo Genta e Dario Ceccarelli, ospite d'eccezione il patron del Giro, Angelo Zomegnan, che risponderà alle domande degli ascoltatori. Continuano a sfilare William e Kate sulla carrozza, finalmente sorridono rilassati, anzi a tratti ridono e chiacchierano sulla carrozza abbastanza disinvolti. Vi lascio proprio allo speciale che Radio 24 ha deciso di dedicare al matrimonio reale. Questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci. Prossimo GR24 alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.